Senta, io sono una studiosa e come tale frequentatrice, anche un'insegnante, frequentatrice di librerie, e volevo segnalare il fenomeno che lei certamente ha segnalato già anche dal suo giornale, delle piccole librerie indipendenti che ad una stanno chiudendo nella città, nel centro della città. Sì. Il centro della città pian pianino diventa una specie di enorme centro commerciale anonimo. Allora, dopo Bibli, dopo la libreria Croce, adesso si trova sotto procedura di sfratto la libreria Amore Psiche, che è vicino a due passi dal Pantheon. Sì, è una libreria che da 20 anni svolge un ruolo molto importante nella vita culturale della città, è un centro di riferimento per una ricerca sulla realtà umana ed anche visitata, meta di tanti visitatori, anche stranieri, studenti d'architettura che la vengono a vedere. È chiaro, prima. Signora, la devo fermare perché purtroppo siamo in chiusura. È un bel tema quello delle piccole librerie, ma come lo è in generale tutto il tema dei piccoli esercizi commerciali che nei centri storici ormai stanno perdendo terreno a beneficio delle grandi catene di distribuzione e soprattutto aggiungerei anche delle grandi banche che stanno invadendo, diciamolo pure, i centri storici, e questo è un problema, è un tema interessante, ma non c'è più tempo per affrontarlo perché purtroppo devo